diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Si arretra un minuto, siamo giù. Inizia a scendere. Eh no, ringrazio per la spesa che hanno portato. È difficile. Quindi siete fermi col lavoro, fate fatica a fare la spesa. Esatto. Scusi se le faccio questa domanda, ma se non ci fosse questa spesa, cioè voi letteralmente non avreste da mangiare? No, quasi niente. Tra un po' che si vergognavano, un po' che comunque ci hanno ringraziato che non si aspettavano della spesa e si sono messi anche a piangere alcuni. E là ci veniva da piangere anche a noi. Tante volte ci trasmettono delle fotografie dei piatti che vengono cucinati in queste famiglie, piuttosto che disegni, piuttosto che il ringraziamento per l'uovo di Pasqua e la colomba che sono arrivati anche nelle settimane successive al giorno di Pasqua. E diciamo che nelle chat di tutti i coordinatori e delle attività degli hub questi messaggi fanno piacere perché dimostrano l'efficacia dell'aiuto che viene trasmesso. Racconta così Andrea Magarini, responsabile della food policy del Comune di Milano. Nella città, per gestire la crisi che è piombata nelle case di tante famiglie, sono stati potenziati gli hub dove il cibo viene impacchettato e consegnato a chi ne ha bisogno. In Italia sono oltre 3 milioni le persone in difficoltà, lavoratori in nero o con contratti deboli che con l'emergenza coronavirus hanno perso qualsiasi possibilità di restare a galla. Nei quartieri più popolari si fa fatica anche a portare i pacchi, mi raccontano i due ragazzi con cui faccio il giro di consegne. Qualcuno ci chiedeva infatti di portarglielo solo a casa perché si vergognava. Quelle situazioni dove una signora di 90 anni aveva pure buttato la pattumiera perché era al nono piano, poverina, da sola, e oltre a portare sulla spesa siamo scesi con la pattumiera a buttargliela. In via Salomone specialmente, che c'è una situazione di degrado in quel quartiere, in via Salomone. I portici interni sono quasi pericolosi, cioè noi siamo entrati durante verso quest'ora così ed era pericoloso. Cioè noi che siamo ragazzi giovani, abbiamo 30 anni, entra lì dentro in... Ma perché? Ma perché trovi qualunque tipo di persona, trovi ragazzi che si nascondono dietro alle mura, cioè proprio sembra quasi una zona mafiosa, sembra una cosa... Cioè... Qualcuno ci ha provato anche a fregarci la spesa facendo finta che era lui la persona che dovevo portargliela. Cioè, sono cose che capitano. Infatti ogni volta chiediamo la conferma del nome, perché a volte scende qualcuno che magari non c'entra niente, non gli diciamo sei Mario, gli chiamo sempre il nome, così da fare un controllo incrociato, sapere che lui è realmente la persona che deve ricevere. E siamo lì e ci troviamo costretti a dargli una colomba, un qualcosina, perché... Cioè, sono lì che ti dicono per favore, cioè, c'è una situazione abbastanza complicata. Ma sicuramente nuovi poveri. Oggi abbiamo incontrato diverse persone che hanno perso lavoro grazie al coronavirus. Quindi è la prima volta che si affacciano a questa nuova realtà dove chiedono, magari prima non chiedono, ma adesso iniziano a chiedere. Trovi persone di questo genere. Poi... Queste persone sono diverse dalle altre, diciamo, quando chiedono. Sì, sono molto più gentili, questo sì. Cioè non pretendono, ti ringraziano. Poi magari scappa proprio la mini chiacchierata dove ti dicono: guarda, mi dispiace ma sono in difficoltà perché ho perso il lavoro, non vorrei sfruttarlo. Cioè, la mettono così e diciamo che è una bella cosa perché vedi che ti riconoscono sia l'aiuto che tu stai dando, il servizio fisico di prestazione, in più anche la comunità che sta aiutando. Quindi questa è una cosa positiva. Se su questo fronte il Sud è letteralmente in ginocchio, anche la Lombardia si sta scoprendo fragile. Di settimana in settimana aumentano le famiglie in difficoltà. Molti sono i nuclei nuovi, disorientati da questa nuova crisi. La food policy ha sviluppato nel corso degli anni, prevalentemente negli ultimi 2 anni, un modello di logistico per il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari. Si basava su una serie di hub distribuiti in alcuni quartieri. Uno era nel municipio 9, ne stavamo progettando altri nel municipio 4 e nel municipio 3, e si raccoglievano le eccedenze per distribuirle alle persone in stato di bisogno. Questo modello è stato totalmente riconvertito, individuando dei centri socio-ricreativi e riconvertiti appunto per poter stoccare derrate e distribuirle alle famiglie che ne hanno bisogno. Io sono stato una delle persone appunto che si è trovato al COC a definire quali potevano essere la soluzione, il modello da sviluppare per rispondere all'emergenza del coronavirus, dato povertà alimentari. E dopo 4 giorni di progettazione, di intessitura di tutte le relazioni, abbiamo sviluppato questo modello che ormai è attivo, questa è la 6ª settimana, siamo partiti di fatto 7 giorni dopo il famoso decreto dell'8 marzo. Siamo partiti prima con un pilota che coinvolgeva 375 famiglie, andando via via a crescere nella seconda e terza settimana oltre a 1100 famiglie e poi a 3000 famiglie, adesso siamo quasi a 5000 famiglie che equivalgono a 16000 persone, quindi una risposta integrata che ha coinvolto tantissime società partecipate, Milano Ristorazione, Sogemi, Amate, da poco anche ATM, tanti dipendenti del Comune di Milano, sono oltre 64 quelli che lavorano negli AVE, arrivano da tante direzioni diverse, sono più di 20 le direzioni, quindi si è cambiata l'attività ordinaria e tante realtà di volontariato che nei diversi quartieri erano attive che sono state coinvolte. Nello hub in cui mi trovo ci sono a lavoro i dipendenti comunali che hanno scelto di mettersi in gioco. Avrebbero potuto stare comodamente a casa e invece eccoli qui, mascherine, guanti, avanti e indietro a scaricare camion e poi subito dopo a fare pacchi. Dipendente del comune. Cosa facevi prima di fare? Io lavoro alle politiche sociali, sono un collaboratore amministrativo presso il dormitorio comunale di Viale Ortles. E niente, mi hanno chiesto 2 settimane fa la disponibilità di poter partecipare a questa task force di Milano Aiuta e niente, ho sentito il mio responsabile, ho dato la mia adesione ovviamente. Cos'è che ti colpisce di più nel fare questi pacchi? Ma ci si rende conto del momento particolare in cui versa la nostra città e diciamo anche il nostro paese, va da sé anche poi tutto il resto del mondo. Credo che sia comunque un importante elemento di organizzativo che è riuscito a venire incontro appunto alle esigenze delle persone che magari in questo momento si trovano in difficoltà. Ma quando fai i pacchi pensi ogni tanto che stanno andando, non so, a delle famiglie con bambini, cioè ci pensi? Certo, sì, assolutamente. E devo dire che comunque il coinvolgimento emotivo ma anche razionale è presente più o meno in tutti i colleghi con cui sto collaborando adesso. E poi abbiamo pure lattanti, abbiamo pure i bambini, sì, tanta tenerezza. 5 panni, carne. 5 sono 3 più 2. Cosa la sta colpendo di queste giornate qua dentro questo hub? Beh, sicuramente l'organizzazione, nel senso che sono organizzati molto bene nonostante sia un servizio relativamente giovane, nel senso che è nato per questa emergenza, per cui sono strutturati molto bene. Aveva già provato a fare dei pacchi alimentari per persone bisognose? No, è la prima volta quest'anno è la prima volta. Cosa l'ha colpita mentre li faceva? E la quantità di famiglie che necessitano, questo sicuramente sì, e ce ne sono sempre di più perché le liste inesorabilmente si allungavano e si allungano. Ma a me ha colpito il fatto che comunque tante persone nel momento in cui non c'è lavoro magari, ma comunque voglio dire, io lavoro qui in questo momento perché non posso lavorare a scuola come farei normalmente. Però nessuno mi ha costretto a farlo, nel senso che comunque in questo senso siamo volontari come tutti quelli presenti e mi fa piacere sapere che molti italiani non stanno a casa con le mani in mano ma si danno da fare sul campo per dare una mano a chi ne ha più bisogno, insomma. E nessuno ci ha costretto a farlo, nessuno ci avrebbe licenziato se non fossimo presentati, voglio dire, nessuno. È stato molto libera come cosa e per cui insomma mi ha fatto piacere. Com'è che vengono fatti i pacchi? Come funziona? Allora, ci sono le famiglie che sono da uno che viene inserito praticamente un chilo di riso, un chilo, seguiamo la lista. Quindi un chilo di pasta? Un chilo di pasta in base alla famiglia che è. Da due vengono inserite un chilo di pasta, un chilo di riso e poi vabbè le lattine magari sono in due e via seguendo. E poi le buste, cioè i sacchetti, vengono suddivisi. Noi semplicemente prepariamo i sacchetti, cerchiamo di venire incontro alle esigenze più possibile, perché a volte capita che i ragazzi che consegnano poi direttamente la spesa alle famiglie non le trovino in un preciso momento e facciamo di tutto per fare in modo di riprogrammare delle riconsegne in modo che a tutti arrivi. È da 5, eh? Sì. 2, sono 3 pacchi pronti. Sono Erika Di Giulio, sono coordinatrice del Lab 3. Allora Erika, ti volevo chiedere innanzitutto come funziona. Qui vedo che c'è un sacco di cibo che viene inserito nei sacchetti. Noi settimanalmente riceviamo dalla direzione una lista con i nominativi delle famiglie che serviremo durante la settimana, che sono divisi in base al numero dei componenti delle famiglie. Quindi noi ogni giorno, con il materiale che riceviamo, le derrate che riceviamo, iniziamo a imbustare le spese considerando i componenti della famiglia che andremo a servire. Allora, noi programmiamo le spedizioni giornalmente, ci sono dei furgoni che ogni mattina arrivano, vengono caricati con il numero di sacchetti e tendenzialmente prepariamo spese giornaliere per 7-8 furgoni, quindi mandiamo via dalle 150 alle 180 spese giornaliere. Chi serve i campi rom ha detto che quando arrivano spesso non riescono a consegnare perché vengono circondati e attorniati da un sacco di bambini che c'è un grande entusiasmo ovviamente quando arrivano. Altre volte invece ci hanno raccontato che quando vanno a consegnare le spese, gli vicini sono incuriositi da questo servizio e chiedono come poter accedere, perché tante persone in effetti hanno questa necessità, stanno vivendo un momento di grande disagio. Ma qua sono tutti volontari o sono anche... No, noi siamo... Allora, in ogni hub ci sono situazioni diverse, parlo per il nostro. Nel nostro hub siamo 6 dipendenti del Comune di Milano che hanno deciso di aderire alla Task Force Milano Aiuta, per cui ci siamo resi disponibili, anziché lavorare da casa continuando le nostre mansioni in lavoro agile, abbiamo deciso di renderci utili in questa situazione d'emergenza. Ad esempio, tu cosa facevi prima? Allora, io sono un'amministrativa del settore educazione. Io ho deciso di aderire perché mi sembrava un'iniziativa valida in un momento in cui siamo tutti in stand-by. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Mi chiamo Napoleon Discia. Io Alessandro Lotito. Da quanto tempo state facendo questo servizio di trasporto? Ma penso che con questa settimana è un mese. Sì. Un mese. E avete visto crescere le richieste? Sì. Assolutamente. Sì. Infatti ci chiedono sempre di più di riuscire a fare il terzo giro, se riuscire a sempre caricare sempre di più, perché c'è sempre gente nuova, famiglie nuove da dover servire. Quindi siamo sempre qua. Siamo sempre in 3 pulmini in questo hub, forse arriverà qualcun altro in più, giusto per riuscire a distribuire meglio tutto il servizio. Attraversiamo una città semideserta, il camion pieno di sacchi della spesa preparati in uno dei 10 hub istituiti dal Comune di Milano per far fronte alla grave crisi che stanno attraversando oltre 15.000 milanesi. In Italia sono 3 milioni le persone in difficoltà. Di settimana in settimana aumentano le famiglie che chiedono aiuto, come conferma chi lavora all'interno dell'hub. È un hub che è stato aperto da poco, dal 9 di aprile, ed è andato in supporto ad alcuni hub che si trovano nelle zone limitrofe. Quello che stai vedendo tu dal tuo osservatorio è un aumento delle richieste, cioè stanno aumentando le famiglie che si rivolgono a voi, che chiedono di avere la spesa a casa, che non arrivano a fine mese? Sì, purtroppo quello che abbiamo osservato è che settimanalmente i numeri crescono. Le famiglie in difficoltà erano già una realtà presente sul territorio e con le quali il comune aveva già fatto i conti, come racconta la vice sindaco Anna Scavuzzo. Diciamo che quando si è formato il COC, quindi il centro operativo comunale, abbiamo subito capito che era necessario fare da subito sistema. Lo facciamo sempre nelle emergenze, tutte le istituzioni coinvolte si ritrovano per capire come collaborare, a maggior ragione ci siamo accorti subito che la parte sociale aveva bisogno di non essere ancillare ma strutturale, e quindi abbiamo cominciato a coinvolgere anche quelle esperienze che già in città erano foriere di come dire, in qualche modo anche risultati che facevano vedere quanto il lavoro di squadra potesse essere significativo. Noi avevamo già degli hub attivi in città, quelli che all'interno del percorso di Food Policy proponevano tutto il percorso di recupero delle eccedenze della ridistribuzione, e abbiamo scelto di in qualche modo far crescere questa idea di essere luoghi dai quali si può arrivare e ripartire per fare in modo di potenziare quella rete di collaborazione. Quindi abbiamo messo al tavolo tutti i soggetti con cui eravamo già abituati a lavorare, penso alla Fondazione Cariplo, che con il programma QB e la ricetta contro la povertà alimentare ha fatto un lavoro strutturale importante in tutta la città, penso al Banco Alimentare, penso alla Caritas e a tutti i suoi centri di ascolto, e ovviamente tutte quelle realtà che sono all'interno del comune, quindi le politiche sociali, la protezione civile, appunto l'ufficio Food Policy. Nel tempo la cordata si è arricchita anche con la Fondazione di Comunità e con la Croce Rossa, e poi una serie di aziende hanno scelto di sostenerci. Quindi è un sistema, anche se vogliamo, un po' ingegnerizzato, perché ovviamente quando i numeri diventano più alti, e purtroppo vediamo che sono destinati anche ad aumentare, è necessario che ci sia un sistema coordinato. Cosa state pensando di fare in prospettiva? Allora, questa settimana saranno distribuite le card per i buoni spesa, e quindi arriverà un altro aiuto che nei prossimi mesi potrà essere un sostegno per diverse decine di migliaia di famiglie. Integreremo i dati per capire a chi stiamo portando la spesa, in modo tale che o da una parte o dall'altra ci sia una copertura, e quindi questo ci permetterà anche di dare, come dire, un aiuto in più a chi è rimasto fuori dal sistema dei buoni spesa e a chi invece non c'è mai arrivato. Sicuramente la fase 2 ci sta interrogando, aspettiamo come tutti quelle che saranno le indicazioni che arriveranno dal governo per capire anche gli ambiti di attività e i tempi con i quali potremo modificare il servizio. Sono proprio di questi giorni diverse riunioni che stiamo facendo con i nostri partner per capire come trasformare il servizio, che ovviamente in queste settimane è stato prevalentemente di delivery a domicilio, perché ovviamente avevamo anche l'attenzione massima a fare in modo che non ci fossero assembramenti e nessuno venisse anche negli hub in coda come succede nei supermercati. Nel tempo ovviamente questo andrà rimodulato, anche perché è necessario capire come riusciamo a mantenere e a sostenere nel tempo, contando che i lavoratori che oggi sono all'interno degli hub piano piano torneranno alle loro mansioni originarie, mentre invece sarà più lento il percorso di emersione delle famiglie che oggi, non avendo più lavoro o non avendolo temporaneamente, ma comunque trovandosi in una situazione di disagio, non sappiamo bene con che prospettiva potranno uscire da questa situazione. Ci sono una serie di componenti che vanno sommandosi, proprio oggi abbiamo fatto il punto con alcuni dei nostri collaboratori. Sicuramente il primo passaggio è una messa a sistema di tutti i dati in nostro possesso per capire quanto bisogno riusciamo a far emergere, con quali canali lo facciamo emergere e che tipo di risposta riusciamo a dare. Già questa condivisione dei dati è un buon viatico per una collaborazione efficace, in modo tale da renderci conto se qualcuno rimane indietro. Vero? Ma il tutti profumo di tutto, non è che ti viene da vedere con le mani. Anche con la mascherina. Sì, esatto. Intanto nello hub si continua a lavorare sullo sfondo, tante vicende che si sovrappongono, alcune incredibili, eppure parte di questa gigantesca storia collegata al coronavirus che ha bloccato tutto e tutti. Andrea Magarini, responsabile della Food Policy del Comune di Milano. Beh, c'è una storia che ci ha trovato tutti totalmente disorientati, non pensavamo che ci fossero alcune situazioni di persone che sono rimaste bloccate in città di Milano che poi dovevano tornare. Un esempio è un circo con le persone che erano avevano già il piano di uscire dalla città, sono rimaste bloccate in città con anche degli animali, delle tigri per esempio, e attraverso tutta una serie di relazioni che abbiamo con la Protezione Civile, con la Croce Rossa e altre realtà coinvolte, abbiamo mappato queste situazioni e le stiamo supportando per facilitare appunto queste settimane nelle quali tutti ci stiamo trovando estremamente disorientati. Altre situazioni sono storie più puntuali che riguardano alcune famiglie che stiamo intercettando, però appunto cerchiamo di rispondere a tutte le richieste che stanno arrivando. Ci sono due tipologie di famiglie, ovviamente famiglie con minori, dove l'aiuto ovviamente è calibrato sul bambino. Ci sono le famiglie con neonati, e in quel caso stiamo cercando di inserire, e in realtà stiamo riuscendo, perché ormai il sistema logistico che è stato sviluppato permette di arrivare in modo puntuale a tante famiglie, inserire omogenizzati, prevalentemente omogenizzati di verdure, di vegetali, così non c'è neanche il problema di carne o non carne, piuttosto che prodotti per bambini quali biberon, scaldato scaldalatte, latte in polvere, le diverse fasce, le diverse taglie di pannolini. In alcuni casi riusciamo a essere molto puntuali, molto precisi, in altri casi dobbiamo ancora ingranare, però cerchiamo ovviamente di connettere tutte le disponibilità che ci stanno arrivando dal settore privato per fornire un'offerta che sia alimentare e che possa rispondere anche ad altri tipi di bisogni. Prevalenza sono famiglie che erano già in carico ad alcune associazioni. Tutto quello che invece arriva dallo 020202 sono nuove povertà, nuove, più che povertà, famiglie fragili che si trovano in una situazione di bisogno, hanno finito le derrate, hanno finito la spesa, hanno finito delle risorse e quindi iniziano a palesarsi, e cerchiamo appunto di rispondere alle richieste. Nel corso delle settimane ci siamo accorti che c'erano alcune zone molto più cariche di famiglie e altre più scariche. Siamo partiti quindi a equilibrare, quindi a cambiare le geografie, ad equilibrare i carichi per ciascun hub, e oggi siamo arrivati ad aprire il decimo hub, quindi dagli iniziali 7 ne abbiamo incrementati di 3. Questi 3 hub in più di fatto permettono di equilibrare il modello logistico. Questa settimana abbiamo sulla città di Milano oltre 540 giri, ogni giro porta una ventina, 22, 23 spese, e si cerca appunto di arrivare a tutte le famiglie che sono in lista. Per ora ci stiamo riuscendo, in alcuni casi ovviamente chiediamo agli hub di lavorare anche il sabato. Devo dire che non c'è mai stata nessuna volta nella quale i dipendenti comunali non si siano resi disponibili, quindi questa è veramente una bella risposta, perché tutti ci sentiamo molto coinvolti, stiamo lavorando giorno e notte e anche nei weekend per facilitare che tutto questo sistema possa continuare. All'interno del lab si lavora in totale sicurezza. Una delle prime attività che abbiamo sviluppato all'interno del COC era definire quello che potesse essere il più alto livello di sicurezza, e quindi dotiamo tutti i dipendenti di guanti monouso, maschere monouso, distribuiamo i gel igienizzanti all'interno degli hub e abbiamo dotato ciascun hub di termometro per misurare la temperatura delle persone che entrano. Nelle periferie la crisi è feroce, la rabbia spesso prevale, le difficoltà sono evidenti anche tra i lavoratori autonomi. In molti hanno dovuto infatti usare i propri risparmi per garantire una quotidianità dignitosa ai propri figli. Un'erosione rapida di tante certezze che arriva con determinazione a colpire la classe media, ancora una volta al centro di questa nuova crisi. Coloro che stringono la cinghia, aspettano, usano i propri risparmi personali cercando di attingere ai vari bonus messi a disposizione dal governo. Si parla di numeri impressionanti. Secondo uno studio di Save the Children, oltre il 77% delle famiglie ha ammesso di aver visto improvvisamente cambiare la propria disponibilità economica. Nella nostra trasmissione ci siamo già occupati della povertà come freno alla crescita dei bambini, tema messo ancora più in luce in questi giorni di scuola virtuale, di case in cui mancano i PC e anche il wifi. Tra le famiglie con minori, circa una su 7 non ha un computer o un tablet a casa. Sono spesso le stesse famiglie che a tavola riescono a mettere a fatica due pasti, ma tra loro ci sono anche quei nuovi poveri, quelli che appunto oggi prendono il pacco alimentare vergognandosi, commuovendosi e ringraziando. Ci fermiamo qui, potete scriverci a diario@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli. Diario di un giorno, cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.